Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buongiorno, buona domenica da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Un treno merci che ha perso un portellone sulla linea ferroviaria all'altezza di Latisana ha determinato ieri sera forti disagi per i convogli dei passeggeri con ritardi e cancellazioni, ma per alcuni viaggiatori anche lunghe permanenze sul treno e poi il mancato arrivo a destinazione. È il tema in primo piano in questa breve edizione domenicale, nella quale ci occuperemo anche del presepe di grado inaugurato ieri a San Pietro, di spettacoli e di sport. Notizie di questa mattina: il successo della friulana Sinta Jehuvissa agli europei di cross con la staffetta mista azzurra. Dunque, in apertura, l'odissea vissuta ieri sera da diverse decine di viaggiatori rimasti bloccati sulla linea ferroviaria tra Venezia e Trieste per un inconsueto incidente, disagi prolungati, ritardi, cancellazioni. Ascoltiamo la cronaca. La cronaca ferroviaria è di un treno merci di una ditta esterna al gruppo FS che perde un portellone sulla linea ferroviaria nei pressi di Latisana ieri intorno alle 18. Polvere scientifica al lavoro, la linea viene riattivata a notte inoltrata. Ritardi e cancellazioni. Quello che la cronaca ferroviaria non restituisce lo racconta una passeggera del regionale veloce Mestre Cervignano delle 17.51. Fermi in treno dalle 18.40 alle 22 a Porto Gruaro. Dal capotreno sappiamo solo che c'è stato un incidente e ci sarà da attendere, racconta Mara Meneghello, operatrice turistica di Fossalon. Stazione senza personale, arriva una sola corriera, non basta per tutti. Porta solo a San Giorgio di Nogaro, poco più in là. Altra stazione deserta, nessun taxi. I più fortunati si fanno venire a prendere. Non una coppia di stranieri con bambini piccoli, racconta Mara. Trenitalia indica che era impossibile fare previsioni sulla durata dei rilievi e che le corriere vanno reperite sul mercato di volta in volta in caso di incidente. Molto difficile ieri, sabato sera, complici anche mercatini e appuntamenti festivi. Rafforzata l'assistenza del personale nei capoluoghi, ma da tempo le piccole stazioni sono automatizzate. Capisco le difficoltà, ma l'informazione non c'è stata, conclude Mara. Non si lascia la gente nel vuoto assoluto in zone dove non esistono alternative. Fossalon, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci a Pordenone per gli sviluppi dell'accoltellamento dell'altro giorno, protagonisti dell'episodio, due romeni. È agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il 31enne di origine rumena che giovedì scorso ha accoltellato il vicino di casa ed ex collega di lavoro un connazionale 32enne in via Lemene a Pordenone al culmine di una lite. La misura cautelare è stata eseguita ieri dalla locale squadra mobile. L'aggressore è stato trasferito in un luogo idoneo diverso dall'abitazione. I due risiedono infatti nella stessa palazzina. In questa prima fase dell'indagine si procede per tentato omicidio, ma un accertamento tecnico sull'entità delle lesioni permetterà di confermare o meno l'ipotesi di reato. Sarebbero almeno 5 i fendenti inferti che hanno colpito nuca, spalla e torace causando ferite superficiali. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 20 giorni. A far luce sulla dinamica della colluttazione anche le telecamere esterne della locale Croce Rossa che si trova in prossimità del luogo dell'aggressione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 8,5 gradi, il vento è a 51 km orari da est nord-est, dunque Bora, con raffiche che hanno raggiunto i 77 km orari, a Gorizia 9, Udine 9,5 gradi, Pordenone 10,5 gradi, Neramontana, Piancavallo, Tarvisio e Sappada 0 gradi, Forni di Sopra 1 grado, Tolmezzo 4, in quota sul Monte Lussari 5 gradi e 5 decimi sotto lo zero, sul Monte Zoncolani i gradi negativi sono 3,5, sulla costa Grado Lignano 9 gradi e 5 decimi. E ora le previsioni dell'ARPA: oggi pomeriggio avremo precipitazioni sparse, in genere deboli, al più moderate sulla zona montana, quota neve a 500-800 metri. La bora, come abbiamo sentito, ha già rinforzato a Trieste sul Carso, resterà forte anche domani quando avremo cielo in prevalenza coperto sul Friuli Venezia Giulia, sulla zona montana più probabilmente dalla notte fino alle ore centrali, precipitazioni in genere deboli con quota neve a 400-700 metri circa a est, 700-900 metri a ovest. Ieri in piazza San Pietro a Roma all'inaugurazione del presepe natalizio c'era un pezzetto di grado grazie all'allestimento della laguna realizzata da una quarantina di volontari del territorio. Al sindaco Giuseppe Corbatto abbiamo chiesto un commento sulla giornata che è stata trasmessa in Mondovisione. È stata ieri una giornata veramente emozionante, iniziata la mattina con l'udienza col Papa e poi si è conclusa con la cesura dell'albero e la visione del presente. È un percorso che è iniziato diversi anni fa, tant'è vero che ha attraversato 4 sindaci. Io raccolgo un po' i frutti di quello che è successo, per cui devo dire la sincera verità, è qualcosa di veramente emozionante. È stato bello poi perché Grado finalmente è riuscito a far squadra, volontari di diverse associazioni hanno collaborato per rendere possibile questo evento e non ci sono stati problemi di nessun tipo e questa è la cosa più importante, anche perché coordinare 40 e più persone non è stato semplice. Dal punto di vista logistico avete avuto qualche problema? No, assolutamente, abbiamo trovato collaborazione anche qua con la Gendarmeria del Vaticano, con i loro uffici tecnici, diciamo, sia da quando siamo arrivati con i camion, con i pullman, eccetera, quindi anche per lavorarci durante la mattina. C'è stato mercoledì, mi dicevano che hanno sospeso la lavorazione perché c'era l'udienza del Papa, la mattina, poi hanno ripreso il pomeriggio, ma i lavori sono andati avanti spediti. Abbiamo avuto anche molta fortuna con il tempo perché ieri era una giornata stupenda. Da Grado siamo arrivati più o meno un 450-500 persone. In più ci sono persone qua gradesi che vivono a Roma e che si sono fatti vicini per dare un contributo e anche una vicinanza di affetto, ecco, di sentimento per quello che è stato. Gli spettacoli, soprattutto musica, nell'agenda di oggi, a cominciare dal concerto che il pianista iraniano Ramin Bahrami terrà all'Abbazia di Rosazzo alle 16, nel programma l'integrale delle variazioni Goldberg di Bach. Tutto Mozart invece nel primo dei concerti dell'Avvento organizzati a Trieste, nella chiesa luterana, dalla Società dei Concerti. L'organista Manuel Tomadin sarà accompagnato dall'ensemble formato da Valentina Russo e Nicola Mansutti, violini, e Ivan Bosniak alla spinetta, all'inizio alle 17. Altri spettacoli di oggi: prosegue il tour natalizio dei New Voices Project alle 18 in concerto a Cormos in Piazza Libertà con la voce solista di Leslie Secchi. A Muggia torna il concerto dell'Avvento al Teatro Verdi alle 17.30. L'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, accompagnerà la mandolinista Annalisa Desiata. 100 anni dalla nascita di Lino Carpinteri e Mariano Faraguna, gli inventori delle Maldobrie, a Trieste li ricorderà la compagnia Gianfranco Saletta con uno spettacolo intitolato Un campanon carico de Maldobrie, in sala Luttazzi alle 17.30. A Udine torna il gala internazionale di danza organizzato dalla Croce Rossa per raccogliere fondi da destinare ai giovanissimi assistiti. Questa 43esima edizione vedrà salire sul palco del Teatro Nuovo 16 stelle del balletto tra giovani talenti e affermate étoiles di compagnie europee. Passiamo allo sport, iniziando dall'atletica leggera, gli europei di cross che si stanno svolgendo in Turchia, medaglia d'oro per Sintayeo Vissa con la staffetta mista azzurra. La friulana dell'atletica Brugnera, primatista italiana dei 1500 metri, era la terza frazionista della squadra composta anche da Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese. L'Italia ha preceduto Francia e Gran Bretagna. Calcio, basket e pallavolo nel menù sportivo di oggi. Comincia fra poco la Triestina, che sarà impegnata nel campionato di Serie C allo Stadio Rocco contro il Vicenza, secondo in classifica, orario inconsueto, quello delle 12.30, con le incertezze legate al terreno di gioco nuovamente rimesso in sesto e alla Boraforte. La squadra di Tesser deve confermare la tenacia mostrata a Padova per poter fare risultato e continuare a credere nella salvezza. Gli alabardati, lo ricordiamo, sono ultimi da soli. Basket in Serie 1, Trieste cercherà di ritrovare la rotta ascendente dopo 3 sconfitte consecutive. Al Pala Rubini arriverà la Germani Brescia, seconda in graduatoria, inizio alle 19.30. In Serie 2 maschile, Apple Wild West sarà in trasferta a Livorno per mettere a segno il colpo che la tenga incollata a Rimini. E nel volley, nella A1 femminile, la CDA Talmansons, che ancora non ha vinto in casa, ospita Perugia all'inizio alle 16. Basket in carrozzina, prima sconfitta per la Castelvecchio Gradisca, che ha perso in trasferta a Varese per 79-67 in una partita combattuta in avanti nel primo quarto di gioco per Castelvecchio per 18-13, ma Varese ha rimontato e si è andati poi al riposo alla pari 30-30. Nella seconda parte di gioco Gradisca ha commesso troppi falli e perso lucidità di gioco, consentendo ai varesini di vincere con merito una sfida già importante tra due squadre che puntano ai vertici della classifica. Alcuni appuntamenti in sintonia con il periodo, dunque le festività natalizie. Si inaugura il mercatino di Natale a Trieste e la cerimonia è stata spostata dall'aperto, come era prevista, al chiuso della Camera di Commercio alle 17. Al Città Fiera di Martignacco, 112 opere artigianali di natività nella mostra 100 presepi che si potrà visitare fino al 25 gennaio. A Pordenone è in calendario l'appuntamento con le fiabe di storia del Caminetto, la Casa della Musica in Piazza della Motta alle 15, altro evento, lo spettacolo Schiaccianoci e Re dei Topi all'ex convento di San Francesco alle 18. A Valvasone per tutto il giorno saranno accessibili il mercatino di Natale, chioschi enogastronomici, giochi e animazioni. A Remanzacco dalle 14.30 sono in programma le letture animate ad alta voce nella sala consigliare, a seguire un laboratorio di circo per bambini. In piazza Paolo Diacono è allestito il mercatino delle scuole, quello del riuso e riciclo. L'accensione dell'albero in piazza si terrà alle 17, a cui seguirà l'ingresso di Santa Lucia. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Andrea Fontanotta, collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12.26, prossima edizione oggi alle 18.30. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.